Friuli nel mondo, 176esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canti del Friuli. I canti del Friuli, tutti espressi con quel componimento che va sotto il titolo di villotta, sono, per la varietà dei loro temi, fra i più caratteristici del folklore italiano. Non a caso Gabriele D'Annunzio, vissuto nel suo Abruzzo a contatto con gli uomini semplici dei campi e dei monti, così scrisse ad esaltazione della villotta. È l'antica villotta friulana, breve come il dardo e come il fiore, breve come il bacio e come il morso, come il singhiozzo e come il sorriso. È la villotta cruda gettata al destino avverso da una voce maschia misurata dai colpi del martello sull'incudine. Vi dedichiamo pertanto, cari amici radioascoltatori, questa piccola antologia radiofonica che intende sottolineare gli aspetti più caratteristici dell'anima popolare friulana nell'esecuzione del complesso corale Jacopo Tomadini di Udine, diretto da Mario De Marco. Iniziamo con il chant di Meret. Ed ora li sfantatis rigula dotis. Ascolterete ora Une volte tanta Masi. Chiribiribin. Ed ora ascolterete Vesovo tantis morosis. Io os doi la buona sera. Seguirà ora a Cerzo Vint di Sore. Ascoltate ora Si Jovès di Maridami. Che sta chi non la credevi. Un giorno Che risorse fazza ciadene. Montagnutis ribassaisi. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.